la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Enrico Bertolino è un comico nato a Milano nel 1960. Milano è la città che Bertolino porta con sé ovunque, è il luogo in cui si muovono i suoi personaggi ed è il luogo per cui questo comico combatte. Sono nato e cresciuto e vivo tuttora all'isola, che è un quartiere vicino tra le due stazioni, tra il Centrale e Garibaldi, molto antico, si chiamava Isola perché c'aveva ancora i navigli una volta intorno. È un quartiere ribelle da sempre questo, perché già dai tempi qui Bava Beccaris sparò sui panettieri durante le moti rivoluzionari, proprio in una via qua adiacente, per cui è un quartiere abbastanza antico, circoscritto con molta milanesità, perché l'isola insieme a Porta Romana ed altri erano quartieri storici. Quanto ha inciso vivere la sua infanzia in un quartiere come quello dell'isola a Milano? Beh, ha inciso molto, anche perché non avendo più frequentato l'asilo, in quanto quasi radiato per via di alcuni dissapori con le suore, l'ho vissuta quasi tutta sui marciapiedi, allora si poteva, per cui marciapiedi e oratorio, che erano le due culture che c'erano. Direi che è stato importante viverlo qua, perché poi si cresceva con le botteghe, si conoscevano tutti, era un quartiere dove c'era una certa solidarietà tipica delle case di ringhiero della vecchia Milano. Lei era figlio unico, ha dei fratelli? No, ho un fratello che fa il più grande di me, che è un professore di lettere, per cui insegna a scuola media. Lei è il più piccolo, quanti anni avete di differenza? Abbiamo 6 anni di differenza. E come ha vissuto suo fratello, professore, il fatto che lei abbia deciso di fare il comico? Ma no, particolarmente noi siamo di quei fratelli che si vedono poco, solo quando serve, ma siamo molto uniti, nel senso non abbiamo bisogno di frequentarci o di scambiarci opinioni frequentemente. Lui è stato molto importante per me perché mi ha portato oltre all'oratorio e alla strada, c'era lui che mi dava le letture, era una passione di letture perché ogni mese mi faceva leggere un romanzo di Pratolini, di Grimm, di Graham Greene, piuttosto che di Vitaliano Brancati, Pavese. E questo mi ha portato appassionato alla lettura. Lui adesso qui è il più famoso, perché nel quartiere dove insegna è stimatissimo, per cui dicono lei è il fratello di Bertolino, dicono a me se sono suo fratello. Quindi per una volta la televisione o comunque la notorietà... grazie a Dio, perché le cose devono essere fatte, le persone vanno valutate sulla base di quello che fanno, a mio avviso. E lui qua sta aggregando classi in un momento per la scuola, come puoi immaginare, abbastanza tragico. Lui riesce lo stesso a fare cose, a organizzare spettacoli teatrali con l'oratorio, cioè a portarli in gita a volte anche a spese delle famiglie e sue dirette, per cui è uno di quegli eroi dell'insegnamento. La nebbia che ora scende piano piano, vi prego non toccatemi Milano. Un fratello maggiore, una città, Milano nel cuore. Enrico Bertolino inizia a fare il comico quasi per sbaglio. Però, quando comincia, non smette più e la fama e la notorietà, come avete sentito, non lo allontanano dalla realtà. La realtà, invece, è sempre presente nei suoi spettacoli ed è una realtà raccontata al milanese. Non comunichiamo più tra noi, siamo gente sola, siamo diventati soli. Soli, e poi li abbiamo anche votati, per cui dobbiamo avere una responsabilità. Siamo soli, soli. Ho visto gente così sola che la mattina, quando alle 7:10 ti citofonano alle domeniche i testimoni di Geova, con la rivista Svegliatevi... Invece di indirizzarli verso una località amena, gli dice: vabbè, senta, ma perché non viene su qua? Le preparo un caffè, viene su al caldo e parliamo di questa apocalisse. Qua davanti al caminetto magari, invece di star giù al citofono che fa freddo. E poi c'è un secondo stadio della solitudine, che è l'abbandono. Quando tu rincorri per strada un testimone di Geova e fa: mi scusi, è uscita l'ultima torre di guardia? E lui fa: non ho tempo. E poi c'è l'abbandono disperato, quando tu alle 6:20 di mattina citofoni a casa dei testimoni di Geova e fai: ehi, com'è che non siamo ancora in giro? Ehi, io voglio sapere sta fine del mondo come va a finire. E queste sono le situazioni nelle quali ci troviamo, solitudine genera cinismo. Milano poi è una città, permettetemi, siamo a Milano ma è una città molto cinica, noi siamo cinici. La città dove quando cammini per strada uno fa: sa che ore sono? E fa: sì, e se ne va via. Egoismo e cinico. Far ridere mascherando i mali della società, una regola antica, quasi classica, quella che Bertolino porta in scena. La base del comico è far ridere, se poi dopo riesce anche a far pensare o riflettere, cosa che io peraltro non posso dire di fare, ma sarà il pubblico che lo determina. Questo ti toglie la nazionale popolarità, nel senso che non sei il battutista classico che magari si mandano gli sms con le tue battute, ma oppure esclude un certo tipo di pubblico, quelle che poi guardano i programmi di prime serate televisivo le domeniche pomeriggio. Ma se, meglio, secondo me, per quello che mi riguarda, è meglio essere così, ma non perdere di vista la realtà dove vivi, nella quale io cerco di essere critico ma divertente. Il comico ha la priorità che deve far ridere. Se poi dopo far ridere ci pensano di più anche altri in maniera amara, io devo rilevarlo. E questo che ho rilevato è qui è ancora tutt'oggi il piano dell'Expo, che sta diventando oggettivamente una pagliacciata, perché andare a organizzare una festa quando il paese è con le pezze al culo lo trovo alquanto fuori luogo. E Milano però gli è rimasto il cerino in mano a Pisapia, perché se avesse potuto l'avrebbe smontato questo Expo. La prima volta di Bertolino però non ha nulla a che fare con Milano. Sarà la moglie brasiliana, la figlia nata da questo amore e un progetto umanitario, a fare la differenza nella vita di questo comico. E sarà questo mix a farlo tornare più combattivo che mai. La prima volta. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. È in Brasile che bisogna andare per trovare la prima volta di Bertolino. La moglie del comico, a Pititinga, è arrivata pensando di prendersi una casa sul mare. Ma quando ha visto che c'erano persone che non avrebbero mai avuto una casa e neppure qualcosa da mangiare, è nata l'associazione Vida a Pititinga, come lei stessa racconta. E siamo innamorate della gente, del posto, di tutto insieme, e ci siamo accorte che non potevamo prendere casa là senza fare niente per quelle persone che avevano tanto bisogno. Chi prima viveva in qualche capanna fatta di fango e legno, adesso vive in una casa decorosa costruita dall'associazione. Chi prima non aveva da mangiare, adesso più o meno ce l'ha, perché mensilmente facciamo la distribuzione degli alimenti di base. Sono tante storie, tante emozioni vissute insieme. Delle felicità, vedendo le famiglie oggi con un tetto, con una casa, un posto dove vivere. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai. Il Brasile è un paese in crescita che vive un boom economico fortissimo, straordinario, dove però chi è ultimo resta comunque indietro. Bertolino sposa una donna brasiliana da cui avrà una figlia. In Brasile torna spesso, fino a che, come abbiamo sentito, decidono di darsi da fare. È qui che ha inizio la sua prima volta, la curva dolce che prende la vita del comico, una curva che fa bene a tante persone. Il momento è quando sono stato in Brasile, sai che mia compagna è brasiliana, per cui noi abbiamo avuto una figlia che è nata in Brasile. In Brasile abbiamo una onlus che si chiama Pititinga, se lei lo saprà sicuramente, con molta meno fatica e con molta gratificazione rispetto a quello che possiamo fare qua, perché quello che possiamo fare qua purtroppo è paradossalmente meno di quello che possiamo fare in Brasile. In Brasile abbiamo fatto una scuola a calcio, abbiamo costruito delle case per persone indigenti. Qui è un peccato, perché se uno si dà da fare per una località a 10.000 km di distanza e lo fa perché pensa di essere un privilegiato, per cui di dover condividere qualcosa con qualcuno, a maggior ragione lo farebbe volentieri nel territorio. Però qua ci si scontra con una realtà che non è soltanto dei politici. Se posso dire, quando hanno fatto la legge per alzare i tetti delle case, mettere quegli orrendi mansardati, ne hanno approfittato tutti, senza protestare, senza battere ciglio, con dei lavori che hanno portato a degli innalzamenti di palazzi, peraltro a volte minandone anche la stabilità. Secondo me questo, il muoversi tutti quanti per vivere meglio nel proprio quartiere, sarebbe una cosa da fare, ma non, o anche nella propria città, perché io non mi limito al mio quartiere, se mi chiamano per la Barona sono disponibile, anche perché insomma la città è un fiore all'occhiello di una persona, è come la propria casa. Se io invito qualcuno in casa e lascio tutto così in disordine, probabilmente mi trovo a disagio. e quando le persone vengono qua e quando un turista apprezza Milano, perché ha anche molte cose apprezzabili come un certo tipo di gestione dei trasporti che io trovo essere all'altezza delle più grandi metropoli, ci sono anche il piano biciclette, io mi sono comprato la macchina elettrica perché penso di dover dare un segnale, di far vedere che si può ugualmente contribuire ciascuno a modo proprio. Ecco, questo è quanto secondo me, poi è un peccato non poter fare la stessa cosa che faceva in Brasile, perché qua quando si mobilitano i cittadini, poi ognuno al momento buono non va, non si presenta, è come l'assemblea del condominio, tutti pronti a arrabbiarsi, ma quando c'è da fare la votazione sono tutti via. Sua figlia quanti anni ha? Mia figlia ha 3 anni. Quindi è molto piccola, sì. Secondo lei è possibile che abbia inciso anche il fatto di essere diventato padre in questo senso di responsabilità o no? Perché dice no, comunque... secondo me ha aggiunto qualcosa in più, cioè la responsabilità che sento su di lei è di medio lungo periodo, è orologeria, scatterà quando lei sarà più grande e diventerà terrore e panico per vederla. Certo, temo che sarà così, perché ho visto altri padri anziani avere questo tipo di sensazioni. Ma in che senso? Allora, quando diventerà una ragazza, diciamo? Quando diventa una ragazza, noi saremo sui 70 anni, ci riderà sicuramente, e in più saremo noi disperati tutte le sere a aspettare che rientri a casa giocando a tombola e quelle cose orrende che solo i vecchi fanno. No, secondo me anche vedere invecchiare i miei genitori in questo quartiere, vedere com'è difficile per mia madre e mio padre, che oggi non sono del tutto autosufficienti, che se non avessimo una badante con 480 euro di pensione al minimo al mese, mio padre sarebbe già in un ricovero e non so neanche se lo terrebbero. E questa cosa qua è vedere uno stato, una struttura assente, cioè laddove si cerca di fare un esame, laddove si cerca di dare una mano, uno spazio per gli anziani, mio padre ancora si muove, ma gli hanno tolto tutti i bar, quelle cose sono finite con i cinesi con le macchinette, per cui il rischio è che gli mangino anche quei 480 euro, una volta almeno c'era lo spazio, c'era la bocciofila per giocare a carte, oggi sono tutte strutture che puntano al mega, ma questa mega struttura secondo me è per mega città. Milano dovrebbe mantenere secondo me una strada di questo. Allora la responsabilità deriva anche dal fatto che io sono responsabile tanto dei piccoli quanto dei vecchi, perché la mia cultura è molto sudamericana e gli anziani vanno rispettati al 100%, e dato che sono loro che ci hanno permesso di arrivare a fare questo. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Una prima volta che per essere raccontata fa il giro del mondo e da Milano passa al Brasile. Una storia che alla fine torna in un quartiere di Milano, il quartiere di Enrico Bertolino, dove si devono fare i conti con una sola cosa, il bisogno di esserci, di essere rispettati in quanto individui. È tutto per questa puntata, ci risentiamo domenica prossima, sempre dopo il giornale radio delle 13. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Se volete riascoltarci, siamo sul sito di Radio 24 alla pagina La Prima Volta. Ciao a tutti, grazie ancora, buona domenica da Cristina Carpinelli.